Chi mi abbatti mi faccio spalla, popolazione randaggi, sento subito un assaggio, e scorti in delocala, fanno i massaggi, buttato, passa innanzi, po' sondaggio, messaggio subliminale, sud prima pagina, argomento vale, rivolta a zona orientale, tutto bravo a sfruttarsi, tradizione popolare, che se l'unione è bene, la spartenza tra rivale, Cavour, romana, gari, balla, te pigli renare, che se nazione cittadina, una nazione, un animale, non capisco buono, ma sente male, dice che faccio parte di Napoli, ma nell'Italia. Crea solitudine, crea malinconia, pensa ai compagni che hanno scelto che è la tua vita, è solo nostalgia dei ricordi, cocco non è morto, nata è fuggitiva, giura di San Frodo, non mi scorda, narra posso, assa favole bene, gente preferita e droga, scusate ma senti, scusate se è poco, a gesto in tutte le meglio una striscia spray, che una striscia coca, meglio appittare un treno, a chi non trova ciò a vena, a chi viva sulle notte senza spazzacchio che si catena. Manca mo, sta cagnando a scena. Non fui a una vita fatta senza bene. Non ti senti furbo, con mia volpa astuta. Tante esperienze che hai fatto, ne capita, capita. L'amore non vanno dominata, ma vanno vissuta. Prima o poi tocca tutto, sai, vita che fai, a luce s'astuta. Scegli musica, fino a che ti hai fatto vieccia. Ma vedi poca fetta ne bonasa, per l'hip hop sto guaglione te ne reggia. Shotgun a compagnia, fuori tutte cerchie. Lontana chi io non lascio quando provo. Voi state ma senti, scusate se è poco, scusate se è poco. State ma senti, scusate se è poco. A Gesù tu te ricero, metti una striscia spray, cana strisce coco, cana strisce coco. State ma senti, scusate se è poco. A Gesù tu te ricero, metti una striscia spray, cana strisce coco. Massimino Bli, lancette che scorrono e metto in soggezione, con la saggia ragione assaggia il mio passo maggiore, non passano le ore, non definisco il tempo, sarà un esaurimento se tu parli con il mic spento, bell'andamento, ascolta la teoria di chi ha il presentimento che è una sorte di magia. Loro sono i Bastard Dogs, questa qui è sempre musica autoprodotta, sono i ragazzi di Napoli che hanno fatto queste fantastiche di tracci pop rap, sicuramente contro i maledetti di Carabao. E mentre il tempo scorre tirano le bombe, cavalco queste onde ormai da tempo come Goldrake, suoni di trombe nella testa ormai non mi risponde, e poi non so cosa ci resta, io vedo solo forme, sarà obeite, dite, lei mi confonde, non era grappa barricata sotto un grande monte, tu sotto un grande ponte barbonizzato, con la mia banda nella notte ti ho carbonizzato, truffa allo stato, spaccio. Mi segnalavano che la voce era troppo bassa e credo che abbiamo risolto, eh? Poca, la vita loca e canto cori quando mi preparo una moca. Questo è TDF, se re che o gli ATMC. No, non, veramente non ascolto, ragazzi. Alzo la mia voce fuori dal clero, penne e foglio, scrivermi medesimo nel vero. Spacca l'ansia dal sollievo, calma apparente, agita i pensieri e confonde l'ego. Cosa siamo a questo mondo? Solo codici a barre, file di pecore alle banche che pagano le tasse. Nessuno alza la testa e si solleva dalle masse, perciò ascolta solo il suono che esce dalle casse. Al centro delle piazze, patibolo rivoluzionario, per chi ruba il futuro, lancia macigni e nasconde la mano. Pesi di carta sulle spalle dei loro figli, per un futuro bianco come petali dei gigli. L'Italia dei vivi dove ne esci solo da morte. D'intanto che degenero, guarda al male del mondo. Per quanto ancora resteremo chiusi in quest'inferno, dove anche il cemento si sgretola ed il tempo è fermo. Solo in Italia la politica è show business. Da oggi la campagna elettorale è su Twitter. Se c'è un domani ti conviene rimboccarti le maniche e presentarti in piazza con accendine e taniche. Riprenditi il paese con le buone o con le cattive. Spara dalla bocca il veleno come vipere. Spacca la faccia alle guardie delle ronde. RK con la bocca innesca bombe. Oggi giusto, libero ma in luz. State censurate, mascherate, case giusto. Pega sulla bus, potere mafioso. Lacrimi in dall'occhio senza perdere il flus. Stirpe canacci. Giro la bolla, giro la bolla, giro la bolla, con la giro. Giro la bolla, giro la bolla, giro la bolla, con la giro. Giro la bolla, giro la bolla, giro la bolla, con la giro. Giro la bolla, giro la bolla, giro la bolla, con la giro. Giro la bolla, falla gira. E allora eccoci qui, finalmente gira la palla. Buon pomeriggio, 18 aprile, siamo in diretta qui in Radio Default. Siamo partiti con qualche minuto di ritardo, sono esattamente 17:45 minuti. Oggi grande puntata quindi con Gira la Palla. Sicuramente un primo ringraziamento va all'autore della nostra sigla fantastica, che chiaramente, come molti penseranno, è di Felice Caccamo. In realtà non è così, praticamente il testo è scritto da Felice Caccamo, la reinterpretazione è tutta nostra grazie a Nisciante, che ci ha gentilmente concesso questo piccolo cameo, come potremmo dire. E va bene, oggi vediamo un po' di che cosa parliamo. Chiaramente ci stiamo avvicinando al 25 aprile, una data che sicuramente sentiamo molto a cuore qui, e quindi non possiamo non parlarvi di quella che è stata un po' la resistenza dei tanti calciatori antifascisti che comunque negli anni passati hanno non solo manifestato durante sui campi da gioco la loro opposizione al regime, ma anche con ben altri impegni, anche con ben altre diciamo così iniziative oltre a quelle chiaramente di tipo sportivo. E uno su tutti con cui oggi vorremmo iniziare questa puntata sicuramente è Bruno Neri, il calciatore antifascista che morì combattendo, spesso è stato definito, e lui è stato un grande calciatore della Fiorentina, calciatore toscano, e praticamente ha avuto una serie di problemi proprio per la sua chiara, diciamo così, idea antifascista. Quindi memore, diciamo, anzi memorabile è una foto praticamente di qualche anno fa, parliamo chiaramente degli anni 30, in pieno regime, dove mentre sul campo da gioco c'erano schierate le varie squadre di calcio, tutti con che quando prima di iniziare la partita dovevano chiaramente fare il saluto romano, lui era l'unico che chiaramente non si prestava a questa pantomima. È rimasta una epica questa sua foto, che tra l'altro abbiamo ripubblicato anche oggi sulla nostra pagina di Radio Default su Facebook, quindi per chi ancora non l'avesse vista vi invitiamo di andarvela a spulciare. E niente, quindi magari vi leggiamo una breve breve, diciamo, estratto, anche per capire un po' chi fosse questo Bruno Neri. E vi riprendiamo questo articolo tra l'altro su Calcio Rivoluzione, e andiamo subito quindi a leggere. Faenza è una piccola città nei pressi di Ravenna, Emilia Romagna, in Italia, il cui stadio si chiama Bruno Neri. A molti il suo nome dice ben poco, sulla sua lapide comunque si legge: qui ebbe i natali Bruno Neri, comandante partigiano caduto in combattimento a Gamogna il 10 luglio 1944, dopo aver primeggiato come atleta nelle sportive competizioni. Rivelò nell'azione clandestina prima, nella guerriglia poi, magnifiche virtù di combattente e di guida, esempio e modito alle generazioni future. Nel 1931 Neri aveva solo 21 anni quando gli stivali e le camicie nere delle orde di Mussolini la facevano da padrone nelle strade d'Italia. Neri era un giocatore della Fiorentina il giorno in cui venne inaugurato lo stadio Giovanni Berta, l'attuale Artemio Franchi, a Firenze. Il nome era quello di un militante fascista che fu ucciso da un comando comunista lungo le acque dell'Arno in uno scontro nel febbraio del 21. Di quella partita quindi c'è un'immagine, quella che ricordavamo prima, i 21 giocatori che fanno il saluto romano guardando il palco, tra l'altro un palco semidistrutto tra l'altro, se andate a vedere la foto, e Bruno Neri impassibile con le braccia cadenti. Bruno Neri si è formato presso l'istituto agrario a Imola e sempre legato al mondo della cultura della sua regione, la sua virtù calcistica lo condussero dalla squadra della sua città, quindi il Faenza, alla Fiorentina nell'estate del 29. In cambio di un importo roboante, 10.000 lire, che chiaramente per l'epoca era una cifra importante. Una sua frase che lo rese famoso ai suoi tempi fu: quando ti arriva la palla tu devi già aver pensato cosa fare. Molti anni dopo Xavi Hernandez ha spiegato con questa frase la differenza tra un buon giocatore e praticamente un cattivo giocatore. Dalla Fiorentina passò alla Lucchese, top team negli anni 30, con la camicia rossonera giunse alla selezione e fece il salto a Torino, dove appese le scarpette agli Iodi nel marzo del 40. Fu due mesi prima che l'Italia si alleò con l'asse nella seconda guerra mondiale. Bruno Neri si avvicinò al movimento antifascista grazie al suo cugino Virgilio, legato alla sinistra italiana dal 1916. Dopo aver lasciato il calcio, l'ex calciatore entrò nell'Ori, organizzazione di resistenza italiana. Lasciò Milano, dove aveva creato un business, e tornò a Faenza. Un giorno venne a sapere che i tedeschi lo cercavano, avevano scoperto il suo gioco, cercò gli oggetti della squadra del suo popolo, regalò i suoi stivali e si recò sulle montagne. La sua missione era strettamente legata alla OSS statunitense, con il quale entrò in contatto in Sicilia nei giorni dello sbarco alleato, e poi aveva rapporti con il Comitato di Liberazione Nazionale, sviluppato nel battaglione Ravenna, incaricato di studiare operazioni di sabotaggio nella linea codica, creata dal maresciallo tedesco Albert Kesselring per fermare l'avanzata degli alleati nell'Appennino. Neri, il cui nome di battaglia era Berni, era diventato il numero 2 del battaglione Ravenna. Il capo era suo cugino Virgilio, Nico. Il gruppo era utilizzato per il recupero dei paracadutisti alleati che si lanciavano nella sua regione. Berni avrebbe trovato la morte in una di queste operazioni. Fu 10 luglio 1944 sul monte Eremo di Camogna. Vicino al cimitero Camogna, lui e il suo collega, nonché giocatori di pallavolo Vittorio Belenghi, furono sorpresi da un gruppo di 15 soldati tedeschi che cercavano di salire la montagna. Provarono a mettere a terra l'attrezzatura, ma i tedeschi trovarono rifugio dietro un muro. Un colpo alla testa uccise il giocatore partigiano, la cui figura si sta cercando di recuperare proprio in questi ultimi anni qui in Italia. E infatti poi dopo vi racconteremo che su Bruno Neri proprio all'inizio di quest'anno c'è stato anche un lavoro teatrale, quindi anche il teatro ha cominciato un po' a parlare di questa figura della resistenza, però anche un importante personaggio anche del calcio nostrano. E poi magari, ecco, dopo un breve stacco musicale vi parleremo un po' anche di cosa è uscito fuori questo gennaio proprio su Bruno Neri e quello che ha prodotto la nostra scena teatrale. Grazie a questa inquinazione ci vela bacere in de televisione, mentre sacalo calzone fanno le pompine a fine a Berlusconi. Guarda che schifo, sei proprio Napoli tifo, e son contento e fiero essere terrona. Va Tenerife, coppa un grande cammello, e quanta una vita amica chi stu cannona. Io non riesco a capire ancora che sta succedendo, cioè ti giuro. No, non, veramente non ascolto raga. Bastardox Shotgun Studio. Sì, sì. Houston Prod Underground. Quella che hanno vire remix. Hippo Jenny Fleb. Massimi Nobli 2012. Pigliato un culo. Nascono che i pugni chiusi e crescono ribelli sti creature. È inutile che a questa casa sbatto faccio un muro. Ma come giuro, se tu ti illudi, si pensi scamo resta tu da bocca chiusa. Salute. Contro la repressione che su stato cascio trucco ci sfrutto lottando e vivendo intensamente sti giornate che ho fa cacato, che ho fa bagrane, che ho fa epocato, ma qua la gloria. E ritornando a questo studio, quindi questa era un po' Bruno Neri. Abbiamo detto che poi anche la scena teatrale italiana ha cominciato un po' a recuperare la storia di questo personaggio, finora il più per più sconosciuto, anzi. E comunque, prima di tornare poi a parlare di Bruno Neri, però volevamo continuare questa nostra, diciamo così, piccola carrellata con i vari calciatori che hanno dato un contributo per la lotta antifascista, visto che, come vi ricordavamo precedentemente, oggi è il 18 aprile, quindi siamo prossimi praticamente a questa nuova 25 aprile, che speriamo sia una nuova giornata di, diciamo così, di resistenza. E oltre a Neri, come dicevamo prima, ce ne sono stati anche altri di calciatori che hanno manifestato apertamente la loro opposizione al regime mussoliniano. E un altro di questi fu proprio Ernst Herbstein. Il suo allenatore nella Lucchese è una delle vittime dello schianto di Superga nel 1949 che causò la fine del Gran Torino. Le leggi razziali di Mussolini lo costrinsero poi ad abbandonare l'Italia, e lui tra l'altro era di ungherese di origine ebraica, e quindi dovette riparare di nuovo a Budapest, dove divenne un calciatore delle file del BAC. Lì la sua famiglia, che aveva preso il nome Egri per camuffare proprio la propria origine ebraica, si trovò di fronte all'orrore del governo di Horthy, alleato di Hitler nella caccia agli ebrei, dove dovevano essere deportati ad Auschwitz. La sua famiglia, camuffata con mille e uno trucchi, riuscì a sopravvivere nella capitale magiara, mentre il padre più volte attraversò clandestinamente il confine fino in Italia per raccomandare a Ferruccio Nova, presidente del Torino, l'acquisto di fenomeni come Loic e Mazzola. Herbstein fu l'ultimo allenatore di quel Torino dei cinque titoli, quindi sicuramente un personaggio d'altri tempi che è entrato un po' nel mito, visto che appunto parliamo anche del Torino, quello fortissimo praticamente, che c'era quasi tutti i giocatori nazionali. Oltre a lui però c'è anche un altro calciatore, Franco Valentino. Lui era un giovane portiere della Juventus, lui riuscì a far saltare in aria addirittura il quartier generale della EIAR, che praticamente sarebbe l'attuale RAI. L'azione chiaramente purtroppo gli costò la vita. Dopo essere stato catturato e torturato, fu impiccato a 19 anni a Corso Vinzaglia a Torino, dopo che i tedeschi non riuscirono a fargli confessare i nomi dei suoi collaboratori, che erano Dante Dinanni e Giovanni Pesce. E quindi questi erano un po' i personaggi che ci andavo oggi di ricordare in questa trasmissione, diciamo un po' da anniversario. E comunque poi adesso proseguiremo e vi parleremo un po' di teatro, come dicevo. Scontri, solo scontri, pacchi commettevo a fama, ma serie mari e monti in un mondo immaginario. A definizione capitale la trovo manca in coppo dizionario. 70.000 euro i tondi per staccare la nazione sicaria. A capo piglia sta foca fama fa caria. Si caruti in distrunzate, scina coppo sciana, balla gata sciarma. Rima come sciabba la gata corda in spalla. A visione miseria se mi lo spalla. Ho fumando all'impero che piglia da usi stalla. Fatta l'utile fuma, casa scume sotto e palla. Anna scunnata che tiene l'uniforme a forma e falla. Falluta, fallutile, sta rima da sletta in balla. Resta muta, si merda, futile che sta da galla. Situazione, situazione pare eterna, onestamente. Se fa prima piglio terno, tuo posto collocamento. Se fa prima piglio treno, ma senza riferimento. Se fa prima piglia vero, governo, tuo parlamento. Questo donno con ma piste chi c'è, sta cumanando. Gente trista, stima, Cristo presante, si sta arrangiando. Chi ne aspetta senza scelta, si nu, sta faticando. E poi tramendo, prima di se sai che è scritta 30 anni. La famiglia in doppia spalla, si sbaglia e rimane a spalla. Passo un ministro con dei palla che aumentano sulle tasse. Un scritto senza fine, una fila che fila massa. Con una massa e massa, mi de casa, una passa vocale. E parlare di passa falsa si vira quando conviene. Supero il limite l'asta, già se io mi scherzo a scema. Quanta casa fanno masta, ma sta vita da partire. Quando sanno hanno fai pasta, vuol fare gente sincera. Quando ne hanno ritto basta e segue solo il sogno. Quando sanno ribellate, spingere stesso bisogno. E come dicevamo prima, Bruno Neri a gennaio è iniziato ad essere più conosciuto anche grazie a un lavoro teatrale che sta girando un po' tutta la Toscana. Questo pezzo teatrale praticamente si intitola Quando... No, oddio, mi sono sbagliato per trovare il titolo. titolo, no, eccolo qua, Bruno Neri, il coraggio di un calciatore, e praticamente c'è come interprete Roberto Gioffre a cura di Giancarlo Cauderuccio, e praticamente questa è stata una delle varie serate teatrali che, come vi dicevo prima, sta un po' raccontando la storia di Bruno Neri in giro per la Toscana. Al momento chiaramente viene soprattutto sponsorizzato dalle varie testate giornalistiche legate al tifo fiorentino, però ecco, speriamo che magari riusciamo pure noi a vederlo, questo spettacolo teatrale che a quanto pare, da quello che noi abbiamo un po' raccolto sulla rete, sembra che stia riscuotendo un discreto successo. E invece per quanto riguarda sempre la storia praticamente di Bernie, come veniva chiamato, diciamo, questo era il suo nome di battaglia, cominciano anche, sono cominciate anche le i riconoscimenti, diciamo così, detti istituzionali ufficiali, che tra l'altro non è che sono particolarmente utili se poi durante gli altri giorni dell'anno poi qualcuno si dimentica di far rispettare, diciamo, quello che sono stati i principi dell'antifascismo. Comunque, a parte questo, comunque ecco, finalmente c'è un giusto riconoscimento su, su un personaggio come Bruno Neri, che magari non viene ricordato, e invece probabilmente anche lui è stato uno dei personaggi che ha contribuito anche a ridare al calcio un minimo di dignità, visto che all'epoca era soltanto utilizzato per la propaganda fascista. Va bene, io direi che magari su questi nostri avvenimenti storici la chiuderei un po' qua. Io tra l'altro chiudo anche ricordando un po' quello che è successo questa settimana. Purtroppo uno studente di Frascati è stato aggredito dal 15 aprile scorso all'ingresso della sua scuola da 10 energumeni del gruppo studentesco. Come al solito, 10 contro 1 hanno fatto, come si suol dire, la voce grossa. Dopodiché tutto questo perché il compagno in questione, diciamo, è da tempo impegnato con una serie di attività col suo collettivo antifascista all'interno della sua scuola a Frascati, e prossimamente ci sarà un'iniziativa a Frascati dove parteciperemo questo 24 aprile, quindi l'invito è a partecipare tutte e tutti il prossimo giovedì praticamente, e dalle ore 14 a Villa Sciarra. Sarà un antifa conflictual party, così l'hanno chiamato gli studenti antifascisti dei Castelli Romani. Sarà una bella giornata, la faccia di chi invece con le aggressioni vorrebbe intimidire questa spinta dal basso, che fortunatamente dimostra che tutto sommato tutti i cervelli non sono ancora all'ammasso. Senza nessuno caccia poco manà, e vire grazie la felice tra miseria e nobiltà. Come posse cattivi guaglioni, viviamo senza padroni, perché qualcosa volim cagnà in tasta spaccimme città. Vega disperazione rinta voce, solo discussione si se vive l'illusione, stampa delle rite e chiocche. A roba mala strada nessuna parte da porta, una picca ne sbocca, figlia libertà, vive facendo lotta. Noi ci aspettiamo l'altro torto, perché solo là c'è la strada opposta. Napoli rimane a carta sporca, se nessuno se ne importa. Guarda buona strada fai, ma non è mai fondura. Si te cuccia ancora capo, amore non si asciuga. Guarda buona rinda perché, c'è trova nata luce. guscia. Se ti accorgi stupi che sta corta a rota conduscia. No, non, veramente non ascolto radio. Forse la giusta soppiglia solo che casa pound. Se piccia tutto quanto è vincito solo un round. Ma è una questione di principio, contrasti tipo. Codusciu come mita, a me ma brucia punto rito. E vabbè, e quindi passiamo alla seconda parte di questa nostra puntata. Abbiamo detto che parlavamo di calcio popolare e così faremo. Dal momento che anche qualcun altro di ben più autorevole di noi come Repubblica si è accorto di questo movimento dal basso che finalmente sta riempendo i vari campetti, i piccoli campetti dei nostri quartieri, dei nostri paesi, e c'è una bella spinta per riprendersi in mano il, questo sport come il calcio, lo sport tra i più popolari praticamente che esistono al mondo, e liberarlo dalle logiche del business e del profitto. E sono sempre di più le squadre che man mano si stanno creando, che si stanno anche raccontando e che finalmente ci ridanno un, anche la, quell'entusiasmo che purtroppo poi il grande calcio, quello dei soldi, non sempre ci regala, se non altro per tutto lo schifo che finora hanno prodotto, i vari stipendi d'oro, i vari calciopoli e vendite varie dei, praticamente del, del, delle partite. Oltre a questo chiaramente poi tutto quello che c'è stato poi all'interno degli stadi per tutto quel che riguarda poi l'aspetto repressione, quindi la tessera del tifoso, la possibilità, anzi l'impossibilità di poter seguire la propria squadra anche in trasferta, per cui quello che invece il calcio dilettantistico sta ridando invece proprio quel piacere proprio di avere la possibilità di praticare sport innanzitutto anche senza avere troppi oneri da affrontare dal punto di vista economico, dare la possibilità a tutti quindi di poter partecipare e decidere poi anche delle sorti della propria squadra. E come vi dicevo sono diverse queste le squadre che nascono un po' in tutto il territorio nazionale. Una su tutti che magari qui a Roma ricordiamo è l'Atletico San Lorenzo, poi anche precedentemente l'Ardita San Paolo, poi c'è un'altra squadra praticamente che è nata a Firenze che è il Centro Storico Le Boschi, e poi ce ne abbiamo un'altra, visto che intendo oggi come sottofondo proprio un gruppo di ragazzi di Napoli. Proprio a Napoli sono diverse le squadre che sono nate, una di queste è il Lokomotiv Flegrea, di cui magari vi parleremo un pochino tra poco, e magari anche un'altra, il Partizan Minsk, qui magari per parlare un po' di calcio tedesco, quindi a dimostrazione che come questa spinta alla fine non c'è solo in Italia ma anche in Europa, c'è un po' questa voglia di ripartecipare e riprendersi in mano, no? le proprie squadre. Tra le altre cose, una su tutti, quella forse più famosa mi ricordo, è quella del Manchester United, che già tempo fa, dopo che il Manchester fu acquistato praticamente dagli americani, dei grandi gruppi economici mondiali come dicono i tifosi del Manchester, loro hanno fondato lo United, che è una squadra dilettantistica proprio gestita dai tifosi del Manchester, proprio in risposta a quanto era accaduto invece alla loro squadra più conosciuta. Per quanto riguarda invece il Lokomotiv Flegrea, vi leggiamo questo articolo perché praticamente loro nascono a Bagnoli e dicono: riscoprire la vera natura del calcio, lontano dai contratti milionari e scommesse illegali, ma soprattutto costruire attorno a una squadra espressione del territorio un progetto di aggregazione sociale e di riqualificazione, di aree degradate in attesa di una riqualificazione che stenta a decollare. L'idea di creare un legame inscindibile tra attività sportiva e impegno sociale ha portato alla nascita nella periferia ovest di Napoli della locomotiva Fregrena, una squadra di tutti dei nostri quartieri, di chiunque condivide i valori della realtà sportiva e della solidarietà, dell'antirazzismo e dell'antifascismo, del rispetto tra calciatori e tifosi, come recita il manifesto di presentazione dell'iniziativa. La locomotiva, che prenderà parte al campionato di terza categoria, è espressione diretta delle realtà organizzate che operano nell'ex quartiere operaio di Bagnoli, in particolare del nutrito gruppo di giovani e meno giovani che attraverso bancarotta prima, l'ex banca del Lido, occupata nel giugno del 2012 e chiusa dopo un anno di attività in seguito al sequestro dei treni di Bagnoli Futura, e Lido Pola poi sono in prima linea nelle battaglie e per la spiaggia pubblica, la bonifica dei suoli e un ruolo attivo della città, della cittadinanza nel decennale processo di riconversione. E niente, nel campo San Domenico di Soccavo praticamente qualche tempo fa hanno fatto praticamente le selezioni. Già precedentemente ricordiamo che a Napoli già c'era stata la nascita della Stella Rossa, che è stata poi la prima vera e propria esperienza di squadra di calcio autofinanziata, e la Stella Rossa diciamo però ha un altro tipo di estrazione, magari molto più legata al mondo universitario. Altro esempio anche il quarto grado, che invece è nato l'anno scorso, anche questo invece viene da Napoli Ovest, e tra l'altro il quarto grado proprio l'anno scorso ha vinto il campionato di terza categoria, quindi quest'anno sta facendo il campionato di seconda categoria. E niente, tra le altre cose poi un'altra bella chicca che viene sempre dall'Interland napoletano, c'è anche l'Afro Napoli, una squadra meticcia, multietnica, nata allo scopo di promuovere l'integrazione e il dialogo tra culture differenti. Quindi già abbiamo parlato di squadre di calcio composte per lo più da migranti, anche Napoli ha la sua squadra meticcia finalmente, quindi a questo punto manchiamo soltanto noi qui ai Castelli Romani. Sporcati dal vostro reato, il fascista vero è quello a capo di ogni stato. Non ci siamo preoccupati, roccupa, come on, Napoli sciusi, sai, ci abbiamo che la cancia vonerà. Noi siamo sciusi, occupammi i posti giusi, non volimmo abusi, pugno giusi, basta fatalità. Cacciami in chi sto stato, a vita costa, fammi tosta e pur l'aria care spiamo intossicata, province cariche di scarica, c'è la vietta, malattie infette, quando meno te la spetta dalla panannata. Stai sicuro che non morimo senza fatica, che la cavolima ce l'hanno pigliata, bandiera rossa come sangue rinde e vena, fianco a fianco hanno compagne che te sostena. Stai sicuro che curtone mantena, pura roppa cari caricata rappresenta, mezzo cannone occupata, non volimo gente che si offende, te non la mente devastamma, hasta la vittoria sempre. Per privazione, privatizzazione, mossa parte all'azione, Napoli a popolazione, e mie zimmane, mezzo cannone più, mezzo cannone fa, nu cannone sana, si ci permettam, fatta una scelta a battere, sta vetta sotto terra fino a tetta, svelta che aspetta, differenza netta, si scende il biglietto con quello che trasmette, tramite suona, sangue e sudore, Napoli chiama e come faccia una raretta, e a rindoghetto a mezzo deserto, già sai che t'aspetta, si inunda muovo, 21 novembre, simulati Napoli che ancora può scendere e credere, con tempo è cagnato, pure se ha troppo tempo non venimmo più ascoltato, c'è da rutto cazzo, ci siamo scucciati, in buio di stilluto, la banca centrale, e da mala gestione, le fondi regionali, venimmo caricati, etichettati, maltrattati, ma ancora una volta non spaziamo liberati, era abbandonato, a quasi un decennio, veniva affittato soltanto privatamente, noi l'hanno occupato come studente, ricchi e niente, generazione precaria, gente periferica, avvelenate le discariche, che in pratica a stente vanno a nanzi, ormai non può più campare, i liborchi indossano senato se continuano a scattare nei loro palazzi chiusi, ci chiamano ambiciosi. Ma il calcio popolare sta spopolando anche in Europa e quindi il Partizan Minsk è una di queste nuove esperienze che nascono dal basso, una storia finalmente che ha rimesso in campo tra l'altro anche una solidarietà internazionale, perché sono stati molti gli apporti che ha ricevuto questa squadra, non solo dalla Bielorussia, diciamo dal paese dove nasce, ma anche ha trovato una forte solidarietà anche al di là dei propri confini del proprio paese. La storia del Partizan Minsk, vi dicevo, e questa storia nasce nel 2002, nasce dalla fusione di due squadre bielorusse, e all'inizio non è che le cose sono andate per il meglio, tant'è che quindi una cattiva gestione ha poi di fatto immediatamente chiuso questa esperienza. Dopodiché nel 2012 si è rifondato questa società proprio grazie quindi all'appoggio di una campagna di solidarietà internazionale che fu gestita in particolar modo da diversi gruppi di tifosi tedeschi antifascisti. Una caratteristica fondamentale ed esemplare del club risiede nel fatto che i giocatori tra l'altro non percepiscono uno stipendio fisso, ma prendono solo dei piccoli premi. Lo stesso vale per il medico della squadra. L'unico ad avere una retribuzione mensile è l'allenatore, pagato con le donazioni dei tifosi e la vendita di gadget. Infatti i calciatori, l'intero team e la tifoseria sono costantemente in contatto, consci della loro complementarietà. Questa peculiarità è espressione della natura proletaria della squadra, sia di chi gioca e di chi tifa. I messaggi che il Partizan Minsk vuole mandare grazie a questa sua autogestione è chiara, a partire dall'anticapitalismo che li porta a non riprodurre certe dinamiche che avvengono nella grande industria del calcio moderno, per finire all'antifascismo e antinazismo espressi dal simbolo della squadra, un pallone che rompe una svastica, passando per l'antisessismo concretizzatosi nella gestione di una lega di calcio femminile. La settimana poi del che era la settimana di marzo scorso, praticamente tra l'altro il Partizan, che era dal 15 al 23 marzo scorso, c'è stato addirittura un tour in Germania del Partizan dove ha raccolto nuovi fondi e ha continuato a pubblicizzare il proprio progetto anche in sinergia pure con altre realtà tedesche che stanno facendo grosso modo lo stesso lavoro. Le squadre, quindi ci sono stati diversi amichevoli, le squadre interessate sono state il Tennis Borussia Berlino, l'Altona Vittoria, il Sampoli, il Rotterdam Lipsia e il Babelsberg. Dietro le partite amichevoli poi chiaramente c'è stata, diciamo, la possibilità non solo di solidarizzare ma anche, diciamo, dare la possibilità di far riemergere finalmente il vero significato del calcio, che troppo spesso viene mercificato e spogliato poi dei suoi veri valori, come dicevamo, e poi finalmente ritornare un po' a quella passione per chi ama poi tutto sommato questo sport. Chiaramente poi, diciamo, sulla passione purtroppo troppe speculazioni ci sono state e ben altro tipo, no? Dai gruppi neofascisti a poi i presidenti, insomma, su tutti. Carissimo Silvio, va bene, insomma, mi pare che questa era un po' l'ultima notizia del giorno di questa nostra puntata di Gira la Palla. Il Partizan Minsk, per chi volesse invece seguire un po' cosa stanno combinando praticamente le squadre che abbiamo appena nominato, vi ricordiamo che praticamente ce ne sono molte di siti che ormai parlano queste squadre. Io a questo punto vi pubblicizzo proprio quella del Quarto Grad, quindi www.quartograd.it. è uno dei siti di cui vi parlavamo prima, è una delle scuole, diciamo, più vecchie a questo punto di queste nuove esperienze che nascono dal basso. Lo stadio comunale si trova a Quarto, a via Dante Alighieri, e va bene. Questi sono un po' gli ultimi consigli della giornata di Gira la Palla. Noi vi auguriamo allora questo buon 25 aprile per chi si troverà nei dintorni dei Castelli Romani a Frascati, nello specifico il prossimo 24 aprile. L'appuntamento è a Villa Sciarra a partire dalle ore 14. Saranno molti i gruppi che suoneranno in quella giornata. Magari, se ci riusciamo proprio prima di chiudere, magari vi diciamo pure chi sono. Se recuperiamo subito la locandina praticamente della giornata, vediamo un attimo. Allora, ci siamo quasi, Allora, praticamente, sì, ecco qua, quindi a partire dalle 14 pranzo sociale, poi ci saranno i Motherline, gli Iron Cave, i Pillow Fight, poi i cortocircuito, e poi ci saranno un paio di Sound Reg e chiudere i Grow Roots e i Sensi 3, tra l'altro nostri amici qui di Radio Default. Troverete poi una serie di banchetti di informazione, libri a 3 euro, vari volantini, editori indipendenti, tra l'altro ci saranno pure dei reading letterari del collettivo L'Aspro. Per cui Antifa Conflittual Party, 24 aprile, questo sarà il nostro modo migliore per ricordare qui il 25 aprile e la lotta al nazifascismo. Noi oggi l'abbiamo ricordato con questa nostra piccola trasmissione. Un saluto a tutte e tutti, rimanete connessi qui su Radio Default. La prossima puntata di Gira la Palla andrà in onda il primo venerdì di maggio, quindi ci risentiremo il mese prossimo. Un saluto a tutti. Giro la palla, falla gira.